Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Dall'aeroporto avevo preso il treno. Poi avevo fatto qualche chilometro a piedi, di notte, in inverno, solo per schiarirmi le idee. Ero riuscito a mettere insieme solo poche parole. Tutta questa concentrazione mi è bastata per guardarla negli occhi e dirle: è da un anno che mi vedo con Michela e non posso vivere senza di lei. Mi chiamo Tania Marchetti, abito a Peschiera del Garda, ho 34 anni e lavoro in un albergo. Si dice che la vita è fatta di tanti piccoli prima e dopo, cioè tanti piccoli e grandi confini tra quello che è successo prima di un accadimento, un avvenimento, un incontro, e quello che è successo dopo. Noi di solito ci ricordiamo solo le cose grandi, solo le cose importanti, che sono appunto un lutto, che sono la laurea, trovare un lavoro, un amore, un grande amore che finisce, eccetera eccetera. Ci sono però anche piccole cose che segnano la nostra vita e che segnano tanti piccoli prima e dopo, e basta pensarci un po' per ricordarseli. Tra tre giorni scade un importante raccolta punti di un importante supermercato. E voi direte: che cosa c'entra? C'entra perché fino a due giorni fa la mia vita era, diciamo, prima di sapere che scadeva un importante raccolta punti, e essere consapevoli che quella raccolta punti stia per scadere, e soprattutto cominciare la rincorsa per prendere dei regali in quel supermercato. Fino a 36 anni io non ci avevo mai pensato. Da 36 anni ho cominciato a farlo, e questa cosa in qualche modo ha segnato una differenza. Per cui dopo questa diretta io dovrò correre a prendere delle scatole. Non ho capito perché abbiamo preso delle scatole alla fine con i punti. Delle scatole è una roba per fare i ricci. Non ho capito perché. Dico, già che di fatto ti sembra di diventare adulto perché hai raccolto i punti fragola e hai deciso anche di consumarli, quando prima invece te ne fregavi dicendo: ma guarda questi che fanno la coda per prendere i regali. No, già che sei cresciuto prendi pure delle scatole, è una roba per fare i ricci. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. Si parla di quello, non tanto dei punti fragola, si parla delle cose che hanno tracciato un confine nella vostra vita e che hanno fatto sì che ci fosse un prima e un dopo. Qualcosa di importante, ma anche qualcosa no. Michele. È banale ma è scontata, ma per me è stata la nascita di Greta. È un confine che passi, netto e deciso, non contrattabile. La gravidanza va a finire così, va a finire, è naturale, ma nessuno ti prepara a quella sensazione. Francesco, la prima busta paga. Maurizio, questa mia ultima convivenza finita malissimo, credo sia davvero la svolta della mia vita. Roberta, la telefonata di cortesia di un mio ex a Natale. Mi ha raccontato lo scorrere della vita di un neo padre di famiglia. Non l'ho invidiato e soprattutto mi sono resa conto che, su via, non è poi così male se ci siamo lasciati. 349-238-6666, sono sempre quelle le cose, no? Riguardano il lavoro, più o meno, riguardano la salute e riguardano l'amore, sono più o meno quelle. Se però c'è qualcosa di piccolo, che magari oggi, facciamo così, magari oggi, che è il 14 marzo del 2012, sono le 16:09 minuti di un mercoledì qualunque, o forse no, ad esempio, per qualche tifoso napoletano questa potrebbe essere una linea di confine, no? Tra un prima e un dopo Stamford Bridge. Se per qualcuno oggi è un giorno particolare, se per qualcuno questa notte è successo qualcosa, o questa mattina, o ieri, che ha segnato una linea tra prima e dopo questo 14 marzo, 349-238-6666. E devo dire che prima ancora di ricevere i messaggi, vince, ma proprio a mani basse, nella puntata di oggi, per il messaggio fuori contesto, l'SMS che dice: salve, ma all'ACI il pagamento del bollo auto è possibile solo in contanti? Saluti, Roberto da Modena. Roberto, spero che sia un'ottima giornata per te questa, e spero che tu possa pagare il tuo benedetto bollo dove meglio credi, magari anche con la carta di credito. E poi, scusatemi, visto che si parlava di calcio, cioè non si parlava di calcio, ma alla fine in qualche modo si finisce a farlo, per Matteo, credo di Vicenza, immagino dal suo messaggio, la linea di confine è stato il gol valido ma annullato a Luiso. Stiamo parlando di calciatori che avevano una faccia da terroristi, se non ricordo male. Il gol valido annullato a Luiso nella semifinale di Coppa delle Coppe allo Stamford Bridge di Londra tra Chelsea e Vicenza. Era il 1997. Ha delineato la mia vita sportiva e quindi la mia vita in generale. Da lì in poi sempre peggio. Matteo, stai su, me la ricordo. Era una partita che finì 3-1 per il Chelsea, con il Vicenza che andò in vantaggio 1-0. Finisse così stasera, non potrà mai finire così stasera. 349-238-6666, la linea di confine, quella prima del quale eravate una roba e dopo la quale eravate un'altra. Questa è stata la linea di confine di Tania. Ci siamo conosciuti presto, amati molto e sposati giovani. Facevamo una bella vita. Gestivamo un ristorante di lusso. Giravamo il mondo. Non eravamo ricchi, ma decisamente sapevamo come spenderli, quei soldi. Eravamo indipendenti l'uno dall'altra, insomma, non una di quelle coppie noiose, lavoro, divano, domenica pranzo dai genitori. C'era capitato anche di viaggiare separatamente, e nel 2007 il programma era questo. Prima sarebbe partita lei per la Thailandia, e io per qualche settimana avrei tenuto il ristorante aperto. Lei avrebbe visitato il nord di quel paese e poi il Laos, quindi sarebbe arrivata in Vietnam, dove io l'avrei raggiunta, per passare 2 settimane insieme. Avremmo visitato la Cambogia e poi lei sarebbe rientrata in Italia per ricominciare a lavorare, mentre io avrei avuto ancora un paio di settimane di vagabondaggio. Il viaggio più bello che ho fatto è sicuramente stato un viaggio in Argentina, dove sono stata via parecchio tempo da sola, è bellissimo. L'ho accompagnata all'aeroporto, l'ho salutata piangendo. Lei al suo arrivo mi ha chiamato e mi ha detto che era un po' inquieta per via degli effetti dell'antimalarica, che le avevano sempre causato incubi. Dopo 2 settimane l'ho raggiunta e siamo stati insieme, come da programma. Poi lei è ripartita e ha riaperto il ristorante. Mentre io, 2 o 3 giorni dopo, sono capitato a casa inaspettatamente, con un paio di settimane di anticipo. Lei stava lavorando ed era così contenta, per quanto stupita, di vedermi. Al rientro aveva avuto enormi problemi, per cui un aiuto era gradito. Era talmente sorpresa che, anche se nel pieno del lavoro, mi aveva raggiunto a casa ed era entrata in bagno mentre facevo la doccia. Mi aveva guardato bene, aveva controllato che non avessi ferite o tagli, che non ci fosse una ragione fisica che mi aveva costretto a rientrare. E non era così, ero sano. Abbiamo servito tutti i clienti e quando finalmente anche l'ultimo è uscito da quella maledetta porta, l'ho guardata e le ho detto che avevo bisogno di parlarle. Era stanchissima. Il rientro dal viaggio, i problemi dei giorni prima e probabilmente anche l'emozione del mio rientro inaspettato, tutto un peso, ma io dovevo parlarle. Era per quello che ero rientrato, perché dovevo parlare con lei. Dall'aeroporto avevo preso il treno, poi avevo fatto qualche chilometro a piedi di notte, d'inverno, solo per schiarirmi le idee, ed ero riuscito a mettere insieme solo poche parole. Tutta questa concentrazione mi è bastata solo per guardarla negli occhi e dire: è da un anno che mi vedo con Michela e non posso vivere senza di lei. È uscita di casa poco dopo ed è rientrata solo per preparare le valigie. E sapete purtroppo perché questa storia parla di me? Perché io non ero lui, non ero l'altra. Io ero la moglie. Non ero arrabbiata, non lo sono mai stata. Mi sono sentita sconvolta perché non me l'aspettavo. 5 minuti dopo ho preso le chiavi della macchina, erano le 5 di mattina, quindi non avevo tanti posti dove andare e sono andata dall'unica amica single che in quel momento mi è venuta in mente e che, a cui potevo suonare anche alle 5 di mattina. E come si può non amare un uomo che fa tutto questo per una donna? È vero, a quel punto la donna non ero più io, era un'altra, ma senza dubbio l'effetto teatrale lui era riuscito a mantenerlo. Tante cose in fondo in passato le aveva fatte anche per me. E cosa racconta di me questa storia? Racconta di come il vaso si è rotto, cadendo dal terzo piano, in pezzi piccolissimi. E di come quei pezzi io li ho rimessi insieme, uno dopo l'altro, uno alla volta, con una pazienza che non avevo mai avuto prima. Sono passati anni, ora ho un'altra vita, ho un bambino, l'amore per quell'uomo non c'è più, ma conservo per lui grande affetto e rispetto e stima. Sì, qualche giorno un po' di rancore, ma in fondo... sono sempre un vaso rotto. Prezioso, sì, ma che non può più contenere acqua e fiori come faceva un tempo. Lay your head where my heart used to be, on the earth above me. Lay down in the green grass. Remember when you loved me. Come closer, don't be shy. Describe the sky to me. And if the sky falls, mark my words, we'll catch mockingbirds. La storia di Tania di fatto ricorda quella di un sacco di persone. molti di noi, no, hanno vissuto un amore controverso oppure una relazione che non è andata avanti come sembrava logico dovesse andare. Però quello che mi è rimasto impresso dopo aver letto il suo racconto è proprio l'immagine di quel vaso lì che cade dal terzo piano, proprio mentre cade, mentre si rompe. E poi quando qualcuno lo ricompone pezzettino per pezzettino, con pazienza, senza fretta, con molta più convinzione e concentrazione di quanta era stata necessaria costruirla addirittura tempo prima quel vaso. Esistono dei momenti nella vita di ognuno in cui senti che qualcosa è cambiato per sempre, e non sono per forza belli o brutti, eh? Sono quei momenti che uno dice c'è un prima e adesso c'è un dopo. Ci sono tanti possibili esempi, c'è ad esempio un prima e un dopo essere stato a New York, per quanto mi riguarda, no? La prima cosa che mi viene in mente. Ma c'è ovviamente la prima volta che si fa l'amore. Per un cacciatore, forse chi lo sa, il primo fagiano abbattuto. Oppure la prima Coppa dei Campioni che ha vinto la tua squadra. O l'ultima che ha vinto la tua squadra. C'è la prima volta che tieni in braccio tuo figlio, la prima volta che devi seppellire il tuo gatto, la prima volta che mangi il sushi. E la prima volta invece che vai in barca a vela, quando, nel momento in cui sei appena uscito dal porto, il tizio al timone spegne il motore e tu ti accorgi che continui ad andare avanti, ma in silenzio. E poi ci sono i piccoli o grandi avvenimenti della vita che ognuno vive e porta con sé, quelli che c'è un prima e un dopo, quelli che non sei più lo stesso, come quando Tania si è sentita dire quelle parole, come quando si è rotta come un vaso. Quel momento di rottura lì, quella linea di confine che io mi ricordo adesso pensandoci, anche sembra una stupidaggine, è stata la prima, è stata la mia prima sconfitta ping pong. Ok, sembra una stupidata, ma non lo è stato. State lì un attimo. Allora, non è che io fossi un campione, questo è chiaro, però mi allenavo moltissimo nel garage di casa da piccolo ed ero bravo. Alle elementari nel cortile della scuola il ping pong non c'era, alle medie però sì. E durante l'intervallo si facevano dei piccoli tornei. E io ero il più forte, per forza, perché mi allenavo tutti i giorni, sin da quando ero piccolo. E per mesi tutti facevano delle gare per potermi sfidare. E io giocavo una sola partita, contro il migliore di quel giorno, e la vincevo, sempre. Era una specie di re del ping pong. A volte avevo delle merendine gratis e poi un sacco di rispetto dai compagni. Ero molto fiero di me. Forse quello è stato il periodo più gratificante della mia vita, perché sapevo fare una cosa e la sapevo fare meglio di tutti. Solo che col passare dei mesi capivo che gli altri, quelli della scuola, si allenavano in continuazione e miglioravano, e ce n'erano un paio, Alberto e Andrea, che arrivavano presto la mattina apposta, prima dell'inizio delle lezioni, per far pratica. E batterli all'intervallo diventava pian piano più difficile, però continuavo a riuscirci, perché ero più esperto. Fino ad aprile, poco prima delle vacanze di Pasqua, avevamo organizzato un torneo che durava un'intera settimana e al quale partecipavo anche io, solo che io partecipavo fin dal primo turno invece che giocare solo la finale, come facevo sempre. Era un po' per dare a tanti la possibilità di giocare, no? Tutti insieme, contro di me, contro gli altri, e dipendeva un po' dal caso. C'era gente che guardava e io ero un po' l'attrazione, no? Nel senso che gli altri cercavano di imparare. Sembravo un adulto davanti a quel tavolo verde ed ero molto fiero anche lì. Ho vinto quasi tutte le partite e sono arrivato praticamente in finale, ma dall'altra parte del tabellone Andrea andava avanti acquistando sicurezza e anche tifosi per lui. La finale era segnata dopo che nello scontro diretto lui aveva battuto Andrea. E nell'intervallo del sabato, prima della settimana di vacanza, io ho perso la prima partita della mia vita, davanti a tutti. E ho quasi pianto, sono andato a tanto così. Peggio di così non potevo andare. Ecco, da lì tutto è cambiato e le mie certezze sono praticamente scomparse. Dicono che è imparando a perdere che si diventa grandi. Se è così, io quel giorno sono diventato grandissimo. Well, I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade. And I combed my hair till it was just right, and commanded the night brigade. I was open to pain and crushed by the rain, and I walked on a crooked crutch. I strode on along to a fallout zone, came out with my soul untouched. Ciao Matteo, ho 30 anni, sono andato per la prima volta dal chiropratico, mi sono reso conto che non sono più così giovane. E poi Luca, questa è proprio una linea di confine geografica praticamente. Sono quasi a Orte è un'uscita dell'autostrada, della A1. Stamattina sono partito da Milano con la macchina piena di bagagli. Sto tornando a Roma, dopo quasi 3 anni, finalmente torno a vivere vicino alla mia ragazza. Lascio un vecchio lavoro per trovarne uno nuovo, spero migliore. Questo viaggio sulla A1 è la mia linea di confine. Luca. The universe. ancora un altro Luca, spero, però. Oggi ho comprato il mio primo smartphone e non ci capisco una sega. 349-238-6666. Andiamo però a Tania, che mi dice Margherita è al parco con il suo bambino. Pronto, Tania? Ehi, ciao! Ehi, ciao, come stai? Benissimo, te? Beh, io sto abbastanza bene, te? Possiamo andare avanti così tutto il giorno, ma direi che non è, direi che non è il caso. Chi è questo bambino che parla? È il mio... Lorenzo, ho detto Lollo per gli amici. È Lorenzo, che appartiene a, a questa seconda vita, giusto Tania? Cioè a quella al di qua della linea. Sì, sì, Lorenzo ha un anno e mezzo, piccolino, è nato dopo, molto dopo. Senti, tu quindi sei in maternità, o se esiste ancora la maternità nel mondo del lavoro? No, però faccio i turni, quindi ho finito alle 3 oggi. E che lavoro fai? Sono andata a recuperare il piccoletto. Lavori in un albergo, dicevi? Esatto. Sì. Cosa fai esattamente? Fai quella che dà le chiavi. La receptionist? Esatto. Sai che io ho sempre un rapporto difficile con le receptionist, perché ho la sensazione che sappiano tutto di quello che faccio quando sono in albergo e che mi guardi, questo fa parte del mio atavico senso di colpa, e che mi guardino come dire chissà quante ne hai fatte ieri, ne avrai combinata qualcuno. Proprio quando, in quell'atto di dar le chiavi, ho sempre la sensazione che ci sia un giudizio, ma ne parlerò con la mia analista. Tania, invece, Lorenzo proprio se la gode. Ho visto una bambina. Siete, ha visto una bambina? E questa è la reazione, sì, quando vede una bambina? Sì, sarebbe l'abbreviativo di Tata, che non riesce ancora a dire. Beh, direi che la linea di confine è molto vicina per lui, se ha un anno e mezzo quando vede una bambina urla in questo modo. Senti, Margherita, che ormai mi tratta come se fosse la mia badante, giustamente, mi scrive, Tania ora sta bene ma vorrebbe evitare domande sulla situazione sentimentale. Io no, ecco, dovevi proprio dirlo. Ecco, e non posso a questo punto, lei me l'ha scritto, guarda, l'ho anche evidenziato, Tania. Sì, ma a questo punto era meglio la domanda. Ma scusami, è scaramanzia la nostra? La nostra intesa come la tua? Sì, beh, l'avevo capito. No, è che... Ustia. Tania, scusa. Ho un compagno, il papà di Lorenzo, però proprio per quello che ho scritto ho sempre bisogno di avere, sai, le valigie in mano. Ah, ok. Di essere pronto alla fuga. Sì, sì, ho capito cos'è quella roba lì. La chiama, lui lo sa e sarà felicissimo, immagino. Non lo so, sei molto felice. Ma sai che ne parlavo con una persona che ha un compagno che ha questa roba del oddio, non posso più star qua, oddio, devo partire, forse vado in Inghilterra, no, forse vado in Africa, no, forse vado a fare una roba per una ONG in India. E so che in psicologia è proprio definito come la sindrome del vento del Mali, che è una roba per cui non puoi mai star fermo. Però ho la sensazione che sia più un teatrino, no? Più un cinema forse, Tania. Cioè che uno ha bisogno di dirlo, poi in realtà va al parco col bambino e sta bene. Vabbè, al parco col bambino sto benissimo. Okay. Vabbè, questa era per tranquillizzare il tuo compagno, ovviamente, e per rompere la scaramanzia. Senti, cosa sappiamo? Cosa sappiamo invece di quello che è rimasto dall'altra parte della linea adesso? Ma in realtà sappiamo tutto, è una persona che frequento ancora e sì, ancora voglio bene. Era il 2007, giusto? Quindi sono passati 2007, sì. 5 anni. 5 anni bastano per metabolizzare una roba del genere? Diciamo che me ne sono serviti 3. E probabilmente è servito Lorenzo anche, che ha dato un colpo, ha fatto cambiare molte cose anche dentro di me. Senti, quindi direi che lui è stata la seconda linea di confine più importante dopo quella, probabilmente. Sì, due cose. È diverse. Proprio contento Lorenzo. Tra l'altro sento che parla con qualcuno. Sì, ha visto un signore, l'ha scambiato per il nonno. Va bene, senti, ti lascio con tuo figlio, ti ringrazio per le chiacchiere e per il racconto. Grazie a te, Tania, buona giornata. E in bocca al lupo anche allora per la nostra scaramanzia, Grazie. Ciao, stai bene, grazie. Ciao, adesso aveva cominciato a piangere, mi pare. Il confine per me è stato quando mi hanno rubato il mio PC con tutte le mie cartelle di lavoro. Anna, diciamo, ognuno c'ha il proprio. Voi siete qui. È in un giardino ed è molto verde, Tania, nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui. È primavera probabilmente, non questa, è ancora troppo presto perché ci siano tutti quei fiori intorno a lei. Ha una sigaretta in mano, ha il cellulare nell'altra mano ed è in una posa che oserei definire simpatica, nel senso che ci sono i montanti di una panchina in questo giardino, ma la panchina non esiste e lei fa simpaticamente finta di esserci seduta sopra. 349-238-6666, piccole grandi cose che hanno tracciato una linea nella vostra vita. Saverio, raggiunta l'approvazione finale, terminata oggi la tesi lunga 9 mesi. Oggi, più del giorno in cui mi laureerò, è una svolta. Sì, perché poi di fatto insomma, la discussione della tesi è una roba, non so, Margherita, tu che l'hai fatta di recente, la discussione della tesi è una cosa, non di recente, ne hai fatta nel 2008, non tanto, è che dimostri 16 anni, Margherita, quello è un po' il tuo bello, oltre a venire da una famiglia chiaramente di comunisti. Oggi a 50 anni ho perso tutto, lavoro, compagna, amici. Ricomincerò col trovare il rispetto per me stesso. Roberto, in bocca al lupo. Sono uno speleologo e domenica prossima farò la mia prima immersione speleo sub, che è un mio limite che non ero mai sentito di poter superare. Cioè, speleo sub è una roba che tu sei vestito da speleologo ma ti immergi pure. Quindi immagino, sarai vestito da sub con della roba da speleologo, immagino. Ho visto un film di recente di James Cameron, quello di Titanic, Avatar. James Cameron, su questi speleologi che si immergono in un buco. Una roba abbastanza brutta. Oggi ho ufficialmente fatto richiesta di affido al canile per una lupetta abbandonata. Cioè, che prende un cane, ok. Sarà dura soprattutto per il gatto. Il mio confine è stato il mio primo attacco di panico. Enea, lo immagino. La mia linea di confine è stato il furto del mio motorino a 15 anni. Da lì ho capito che le persone non sono tutte buone. E no, questa è una cosa che effettivamente ti segna. La prima volta che anch'io non ho più trovato il mio motorino, ho detto... evidentemente c'è qualcuno che prende i motorini degli altri. Questa è la prima roba che ti viene in mente, no? Cioè che tu la lasci lì e dici è tuo e niente, c'è della gente che te le prende. Che, detto così, sembra una banalità, però se ci pensi ti cambia proprio il modo di vedere le cose, no? Cioè che non puoi lasciare delle robe, devi legare la tua vita, altrimenti qualcuno in qualche modo te la porta via. Domenica pomeriggio, questa non è male, perché ci sono ancora persone che nel 2012 credono che andare al cinema da soli sia da sfigati. E ne fa parte la ragazza che ci manda questo messaggio, o la donna. Domenica pomeriggio ero malinconica, decisi di andare al cinema da sola e fu un toccasana e mi aprì un universo. Andate al cinema da soli, vi assicuro che è molto più bello che andare in gruppo. Non dovete commentare all'uscita, non dovete dire cose durante il film disturbando gli altri. Sei lì, al cinema si va per vedere il film, punto, per fare nient'altro. Oggi, dopo un anno di auto a gasolio, ho scelto il metano. Siamo su di scelte, ragazzi, eh. Oggi linee di confine veramente forti. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it. C'è un... aspetta che mi dicono che è arrivato un altro messaggio. Eccolo qua. Dopo 22 anni di residenza in Italia e dopo 5 anni di attesa, finalmente mio padre è diventato cittadino italiano. Spero che la diano anche a me il prima possibile. Mohamed da Bondeno. Fe è Ferrara. Aiaia. Fe, che brutta roba, non sapere la geografia. Dopo 22 anni di residenza, in bocca al lupo Mohamed a te e a tuo papà. 349-238-6666. Mi è arrivata una mail che parla di un piccolo momento di confine, di una ragazza che si chiama Olivia e che questo momento di confine l'ha vissuto tra ieri notte e questa mattina. Caro Matteo, quando ho letto su Facebook che oggi si parlava degli eventi che tracciano un prima e un dopo nella nostra vita, ci ho pensato un po'. Ho pensato a tutti quei gradini che ti rendono di colpo una persona diversa. Un lutto, l'incontro con qualcuno, la laurea, il primo lavoro. Il fatto è che però oggi sono troppo scossa da quello che è successo ieri sera e spero fortemente di sbagliarmi, ma ho paura che questo piccolo accadimento possa segnare un prima e un dopo nella mia relazione e quindi in me. Guarda, la storia è semplicissima e quasi banale. Ho un fidanzato che amo molto, più di quanto sia mai successo. Lui è una persona intelligente ed equilibrata, solo che ha una forma di gelosia e di fastidio nei confronti di un mio ex fidanzato, che mi capita di incontrare raramente in un locale della mia città, che frequentavo e che frequento. Ieri sera, al termine di una bellissima serata insieme, dopo una birra e un panino, stavo pagando alla cassa quando ho incrociato questo mio ex fidanzato, che mi ha abbracciata e abbiamo scambiato due parole. Quando mi sono girata, il mio ragazzo non c'era più e mi aspettava fuori sul marciapiede. Vedi, non è successo proprio nulla, però abbiamo trascorso una notte intera a discutere su come sono fatta e sul modo in cui secondo lui gestisco i miei rapporti con gli uomini e con le persone in generale. Non è tanto il fatto di essermi sentita attaccata che mi ha ferito, quanto la paura che lui non mi voglia come sono o che semplicemente mi voglia diversa. Sembra uno sfogo delirante il mio, ma è tutto il giorno che ci penso e il tema della puntata di oggi mi è parso profetico. Ecco perché spero fortemente che non sia così. Spero che quella di stanotte non sia una linea di confine. Spero tanto che una stupida litigata notturna non diventi un evento che delimita un prima e un dopo nella mia testa. Spero che non si crei un precedente e che questo piccolo evento sia solo un passaggio e non un gradino dal quale non si torna indietro, da cui non poter più né salire né scendere. Quindi, dopo la laurea, dopo il primo bacio, la scomparsa di una persona cara e il mio primo giorno di lavoro, non ho intenzione di segnare sul calendario la serata di ieri con una barra trasversale. Grazie mille per il tuo spunto, o forse no, Olivia. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa. Better run, run, run, run. Mia figlia ha 27 anni, ha lasciato il ragazzo, ha trovato il lavoro, va al cinema da sola e fa biscotti tutte le domeniche per i colleghi. È ingegnere aerospaziale. Renza, non ho capito cosa c'entri con la linea di confine, ma il tuo messaggio è straordinario. La mia linea di confine è stata quando ho lasciato un lavoro sicuro in Italia per trasferirmi a Zurigo. È stata la scelta migliore della mia vita. Una decina d'anni fa, avevo 35 anni, sul bus un ragazzino mi ha urtato e mi ha detto: mi scusi signore, ero diventato vecchio. E poi l'ultima, qua si parla sempre di figlie che diventano grandi. Oggi per la prima volta ho visto mia figlia baciare un suo compagno di classe. Un bacino sulla guancia, ma che linea di confine. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile la puntata di oggi, che sono Pietro Lacorte, Margherita Ina, Stefano D'Andrea e Tiziano Bonini a modo suo. La puntata di oggi è finita, la puntata di domani è una puntata particolare perché per la prima volta abbiamo un ospite, cioè il protagonista della puntata che ha scritto il racconto è di fatto uno scrittore, anzi una scrittrice, perché la storia di oggi era la storia di Tania e parlava di confini. Quella di domani è una storia più speciale, è la storia di Dasha Maraini e parla di linguaggi. C'era una volta, in un piccolo villaggio fra le montagne abruzzesi, chiamato Pescasseroli, un castellano, il conte di Mancina, che aveva un figlio di nome Gioioso.